C'è qualcuno? Sezione 10, c'è qualcuno? Hola, sezione 10. Chi sei avanti? Avanti su 10. Ci sei, cucca. Eia, eia. Eia. Oh, yeah. Vabbè, va. Comunque. Speriamo che non sia niente. Vabbè, a parte vabbè il... come si dice? A parte il... vediamo bene, che sempre sono altre le cose. le glicemie. E poi vabbè, è lei che già, è lei che mangia e si corica. Ascolta, ma come mai queste glicemiate? Ma sta abusando? Sì. Perché l'ho controllata con queste ribizzine? Cosa la faccio? Le metto... Cioè faccio, metto la museruola. Casino, già. Non posso fare, non ci posso fare niente. Sotto mi metto un cerotto, che mi è uscita una crosticina dalla gamba. Lo so, quando sono anziani sono così. Cioè addirittura c'è gente che si nasconde il cioccolato e poi se lo mangia quando non lo vedo, l'ho capito? Sono persone così. Purtroppo sì, già. Ho messo qui qua. Mi sono fatto cerotto, se ce lo metto. Oh cazzo, non c'è, queste crosticine sono micidiali. Inizia a uscire sangue. Sono un cerottino e buonanotte. E tu non le stuzzicare, se li gratti, poi frutta. No, stavo grattando, già avevo prurito, ma invece ho preso la crosticina, ora non esci più sangue, no? Che pagato. Ah, Tarino, non l'ho sentito stasera, boh, di solito entra. No, non l'ho sentito. Soia. E quindi domani devi andare a fargli fare questa visita? No, non è domani, dopodomani. E dov'è? Policlinico. E poi adesso non mi ricordo, aspetta, forse ne ha altre, però non quest'anno, il prossimo anno. È un casino prendere una visita adesso. Ma se questa qua gliel'hanno data perché gli hanno dato la priorità. Ma è preso dal culo? Sì, sì. Mi ha messo la priorità il medico che l'ha controllata. E anche a me hanno messo la priorità, mi avrebbero dovuto operare ieri, invece mi hanno messo con riserva, mi ha detto solo se qualcuno lo scartiamo per qualche cosa che c'ha, oppure rinuncia lui, allora entra lì al posto suo, se no no. E infatti non mi hanno chiamato. Tu pensi dovrei fare l'operazione al naso? Quella che vanno questi polipi. Polipi, non polpi, no. Mi hanno detto tempo, cioè di deve passare almeno un anno e mezzo che sono strapieni. E ce ne stanno facendo ogni giorno di queste operazioni. Comunque i continentali li chiamano polipi, non li chiamano polpi, li chiamano polipi. Vabbè, loro li chiamano così qua. Ma se quello che mi operano non è proprio italiano. Probabilmente in italiano non si chiamano polpi, ma siamo noi che li chiamiamo polpi. Lo so. Oia, non c'ho tanti di quei dolori oggi, guarda. Io di notte già ho dormito bene, mi ho preso l'ulti. E ho già dormito tutta la notte, ma sono stato bene veramente di notte. Ma quante notti sto passando senza dormire, ui. Immagino. Casino. Ma se oggi mi è venuto un... ho fatto colazione la mattina alle 6:30. Adesso mezzogiorno, questo mal di pancia strano. Sai che ho fatto la quarta dose anche. C'è un virus. Adesso, poi sono andato in bagno, vedami, poi mi è passato. L'hai fatta la quarta dose? Certo. No, io non le ho fatte. Già. Se la vuoi fare, la fai, non sono obbligato. Lo so, ma questa quarta dose che hanno fatto era solo per tappare sino all'inverno, poi ne devi fare un'altra, capito? E intanto io guarda, non è che vada chissà dove, io sto in casa. Vabbè, non c'entra niente già, ma se puoi beccare anche nell'aria, cosa ne sai? Poi ripeto, non è obbligatorio, io se volevo non le facevo, però per sicurezza l'ho fatto e via, e poi tanto mio muore di drone e muore di Africa, si da fuori. Lo so, però se puoi evitarlo di iniettarti cose strane è meglio. Io adesso, come adesso, ho fatto il tampone e non c'ho niente, quindi l'ho fatto avanti il tampone. Ma in ospedale, non in farmacia, il tampone che fanno in ospedale. Ho fatto quello e più il prelievo del sangue, poi sapere il gruppo sanguigno e buscare le sacche per l'operazione. Vabbè, dai, piano piano già le fare le cose, quelle fatte. È un casino. Vabbè, poi dicono che devono levarne la... Tu mi sai che me l'hai detto, che non ci sono più fondi. Per che cosa? Per fare le visite, c'è l'esenzione, non ci sono più fondi, sono a pagamento. E io non te l'ho detto, ma è in giro questa voce qua, c'è. Devo tenere anche il reddito cittadinanza, voi di gente adesso sta male. Casino. Poi non hanno voluto i fascisti, invece le bombe erano i fascisti. Ma carità, vabbè. Ma non penso che lo levi, l'ho detto. Se quanta gente si impicca, lui non è idea. Poi forse anche sui bari di piazza. No, sono d'accordo Luca, se lo danno alla gente che ha bisogno, però non sono d'accordo che lo diano a quelli di colore, ai tossici che li usano per altre cose, a gente che li usa sproporzionalmente, invece di andare lì, vabbè, a sproposito diciamo, là, che li usa a sproposito e compra cazzate invece che farsi la spesa. Sì, ma sono d'accordo con te. C'è chi se li consuma i circoli, più di uno, cosa fa? Beve, poi quando ritira va e paga, perché pare giusto, se ce lo danno perché devi campare, non che te li devi bere. Ma infatti, non dovrebbero mettere dei limiti praticamente che tu li puoi usare solo per fare la spesa, boh, basta, non puoi fare altro. Pagarti le bollette, magari, pagarti le bollette, questa roba qua, ma non prenderti elettrodomestici, tutte le cose che molta gente ne approfitta, capito? C'è gente che se li passa da quella alla post-pay, poi se li ritira, più di uno, io non l'ho mai fatto, sono sincero. Sì, ma lui, non lo vedo giusto io una cosa del genere, ma poi ognuno fa quello che vuole, però... diciamo, fatta la legge e trovato l'inganno, c'è sempre chi ne approfitta delle cose, allora non va bene, c'è gente che prende le tue cittadinanze e non ne ha bisogno, c'ha vile, c'ha questo, c'ha l'altro, e prende le tue cittadinanze, ma stiamo scherzando. Perché non fanno controlli, c'è gente che c'ha la macchina nascosta, a nome di un altro, e gira in macchina grossa, e viene più di uno così, lasciamo perdere, c'è gente che c'ha casa propria, ma lasciamo perdere. Ma infatti per colpa di certe persone ci piangono tutti e non è giusto, ci vuole praticamente un limite nelle cose, ma bisogna e poi se tu mi togli la tua cittadinanza mi devi dare anche il lavoro, perché non puoi lasciare la gente senza travaglio e senza reddito. Ma infatti dovrebbero dare lavoro già, hai ragione, se non danno lavoro, ma niente, non ha gana di travagliare, non ne hanno voglia. È che non ne ho voglia, muore di fame, perché tutti abbiamo sempre lavorato, capito? È che non ne ho voglia, muore di fame, peggio per loro. Però, cazzo, chi lo può fare, chi lo può fare, può andare a lavorare e dare il lavoro, lo deve accettare, punto. Che diciamo una soddisfazione sua che i soldi che se li sta guadagnando, capito? Oh, vedi voi, tu vedi ieri con la birra in mano, lampada in chili, busata, tutta la lì nei pignoli. Lo so, c'è più di uno così. Dopo non ci puoi fare niente, da voi fa. Non ci puoi fare niente. Cosa la forza fa? Io mi sono preso le pizzette ieri notte, mi sa che le riprendo. Che se la furti, ma c'erano quelle delle pizzette. Poi ci devo fare la pasta, non la biugana già. Poi c'era troppo caldo. Poi ha scaldato di brutto, Le pizzette io le sto prendendo qua giù, sono ben buone, croccanti lui. Ti dico la verità, sono buone anche quelle di Stefani, Ma sì. Diciamo che si equivalgono, dai, sono tutte e due buone. Non mi piacciono invece quelle di Oggiano che sono modi, che mamma mia. No, a me non piacciono, non mi piacciono. Sono buone quelle di cocco, però sono troppo morbide. A me piacciono più croccanti. Anche la Fairy, per dire, io la prendo sempre in Vianura, è un bel buona lì, ne ho provato da tante parti ma non mi piace, invece lì è bella asciutta, non è oneosa, e l'ho mangiata anche con una persona, mi ha detto guarda, veramente buona. Sai cos'è? Troppo olio, è buonissima quella Fairy, però troppo olio. No, io guarda, l'ultima volta che l'ho presa era proprio bella asciutta, non ce n'era di, magari una volta può anche capitare, io l'ho presa ed era bella asciutta. Vabbè, hai visto la vita di Marina? Aspetta, una stampata, meno male non si è fatta male. Poi c'è riuscita, tu lo sai che ho provato, però purtroppo il braccio sinistro non mi reggeva per via del vaccino. Ho notato adesso che mi è passato, un giorno vado, vediamo un po' se mi fa di nuovo male. Perché il peso lì c'è un po' di peso, se tu non ce la farai mai a farlo, che sei più pesante di me. Più pesante sì e peggio è. Io lo stesso ho preso 80 kg, non ce l'ho fatta, ma c'è Mariana che pesa 60-65 così. E io da ragazzo già lo facevo, lo finivo anche tutto, adesso non c'ho un'età di fare queste cose, però niente, non è che sia facile, perché ti fate rimanere di braccia la vita. Bisogna cercare di fermarsi sempre attaccati e poi di ricominciare se ce la fai. Deve essere anch'iato, dov'è che eravate? Già di lì su? No, lì a Sant'Orsola. Ah, ho capito. Deve essere anche alto, perché io ho visto l'acqua è caduta, ma lì è caduta, c'era una bella altezza. Vabbè, non è alta, c'era due metri, ma alla fine ha toccato con i piedi, con le gambe, dai. Non è che perché è molto alta, poi si è piegata lì, ma secondo me l'ha fatta apposta. Vabbè, almeno ci ha tentato, io l'ho scritto, almeno già lo manco va tentato, invece chi l'ha criticato e cosa non ci hanno tentato. Aspetta un attimo già che già sta piangendo. Aspetta già che la maggiore aldea, dai, arrivo subito. Chi è avanti? Sezione 10, c'è qualcuno? Sai che c'è sempre qualcuno sul 10. Ce l'ho già ben sentita. Chi c'è pure? C'è la Luca, mi ha dato da mangiare al cane. Ha detto di aspettare un attimino che sta arrivando. Niente, qua sul 10 è difficile trovare gente, ci sono sempre io, Natalino, qualche volta tra qualcun altro, ma poca gente. No, ieri ho acceso, sono stato un'oretta a cane parlando con coso, con Claudio Di Muro, su poi è entrato un attimino Luca, già abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ho cambiato microfono, troppo forte questo già. No, va bene, per me va bene. Basta che non gridi, è bello forte e pimpante, però va bene, si può sopportare. No, perché sei troppo forte, perché questo è amplificato, l'altro non era amplificato il microfono, quello che avevo prima. No, è abbastanza chiara, la modulazione è forte, dai, non disturba, va bene. E niente, qui con Luca stiamo parlando del reddito di cittadinanza, di queste cose qua che vogliono togliere. E di gente che lo usa male, perché ci sono persone che ne approfittano, se li fanno cambiare in soldi eccetera eccetera, fanno un bel di manfitto. Purtroppo i furbetti ci sono sempre e c'è sempre e ci saranno. Io lo darei alle persone effettivamente che hanno necessità e poi li metterei per dire lavori socialmente utili, per dire quando devi alle scuole anziché occupare le forze dell'ordine metti i ragazzi, cioè per accompagnare i ragazzi, il cosa anziché mettere vigili urbani e cose, togliere spazio, quelle cose lì, tu ti metti lì e poi cose per dire, anche per dire uno stipendio minimo, poi li fai fare qualche ora per sistemare la città, secondo me. Sì, anche io ho detto la stessa cosa, le stesse mie parole, io ho detto darle alle persone che ne hanno bisogno, ma darli agli extracomunitari che se ne vanno, se ne ritrovano nel loro paese e continuano a prendere il diritto di cittadinanza, ma ti sembra giusto che ne hanno scoperto adesso? E forse solo quelli è la minoranza, ma c'è gente, l'hai visto quello che hanno fatto anche alla televisione, l'hanno intervistato, che lui non ci va a lavorare, gli hanno offerto il lavoro da un'altra parte, no, io rimango qua, io sto bene qua, mi danno il reddito di cittadinanza e quei soldi a me mi vanno bene, e poi si fa i lavoretti in nero. Sì, te lo dico, lo sbattono in faccia, capito? Uno l'hanno intervistato su internet, ha detto, io perché stai venuto in Italia? Perché qua in Italia ti danno i soldi senza lavorare, così ha detto. Si chiama reddito di fannulloni. Ciao, ciao, dai, ho da fare, ci sentiamo, ciao. Ciao Giulio, ciao, se vuoi rimanere non c'è problema. Ciao Giulio, come senti? Tu rimani, non ci sono problemi, già lo sai. No, ho da fare, sto facendo qualcosa. Niente, mai non lo ascolto, dai, continuo ad ascoltare, ma ho quasi finito, dunque tra 2-3 minuti spengo. Vabbè, ciao, ciao, grazie comunque per l'invito, ciao. E al volo ti dico che lì te l'ha appena segnato 1-0. Sì, vabbè, non mi sto più interessando di calcio, mi sta facendo schifo la Juve, per cui non mi sto più interessando più di tanto. E il Napoli quest'anno è fortissimo. Già lo so, purtroppo è stata anche un po' sfortunata l'approccio della partita di ieri della Juve, era un po' così. C'è qualcuno secondo me sta arrivando contro, vabbè. Speriamo bene, dai, adesso in Europa League speriamo che tra l'altro deve ancora arrivare in Europa League, perché deve aspettare i risultati con la Maccabi, come si chiama, Maccabi Haifa. Vai già, andate il mic. Ciao, ti trattieni giù, ciao, ben sentito, grazie per i saluti, ti salutiamo, dai. devi andare a cenare. Sto terminando, sto ritirando tutta l'attrezzatura e dopodiché chiudo. Ci sentiamo, ciao Gianni. Comunque ancora non ti hanno chiamato, speriamo che ti chiamino subito, così almeno ti liberi di quel problema. Mio fratello ha avuto lo stesso intervento. Babu, ciao già, comunque io ti faccio i migliori auguri in anticipo, speriamo che ti chiamino presto, così almeno ti liberi di questo fastidioso dolore. Ciao Gianni, ciao Roberto, ciao, chiudo. Ciao Giulio, già ci risentiamo quando vuoi, ciao vai già. Ciao grazie Giulio, mi avrebbero dovuto operare ieri, però mi hanno messo con riserva e non c'è stato nessuno che abbia rifiutato, quindi non mi hanno chiamato, vabbè. Pazienza, avanti Roberto. Ma ieri ti dovevo operare? Sì, dovevo operarmi ieri, però mi hanno messo con riserva, mi hanno detto se qualcuno rifiuta praticamente c'è lì, e invece non ha rifiutato nessuno e mi hanno fatto il tampone, mi hanno fatto tutte le visite, tutto quanto, e adesso rimane solo anche il sangue, mi hanno prelevato per sapere il gruppo sanguigno per prendere le sacche di sangue. Cacca. È un po' scaloniato solo, adesso con urgenza la dottoressa invece mi pare che non ne hanno tenuto conto. Ieri operavano quelli con robot, capito? Quelli con robot hanno operato un signore di Valleluria che io ho conosciuto, ha fatto amicizia lì andando a fare le visite e cose, ci siamo conosciuti e gli ho telefonato e mi ha detto guarda mi hanno operato alle 5 e io ho telefonato verso le 7 e mi ha detto sto benissimo, guarda mi hanno fatto la lastra, mi ha detto che il radiologo che mi hanno fatto un bellissimo lavoro e l'hanno operato con robot, capito? Quello è il futuro, adesso con queste tecnologie innovative molto più precise, meno invasive, un sacco di cose, sempre meglio la medicina, molte cose 10 anni fa erano impensabili come che adesso sono di routine, di cose normali. Ok, facciamo anche una chiamata generale se qualcuno vuole entrare sul 10, perché l'altro giorno ieri c'era Muro, ho detto chiamate che magari ci sentiamo, se no gli mando un messaggio e gli dico che siamo qua. Facciamo un secondino di bianco, avanti sul 10, chi vuole entrare, se no riprendi tu Gianni. C'è una propagazione allucinante, americani, tutto di più, ma segnali forti, mi sono spostato poco fa, ma 9, 10. E io li sento anche qua. Adesso c'è S8, ci sono delle gente che sta parlando qua, però non ho capito che tipo di modulazione sono, perché ho provato in banda laterale, è stranissimo, non riuscivo a capirli bene, vabbè si sovrapponevano, di lì bisogna vedere anche la propagazione che si incrociano varie delle modulazioni e non si capisce nulla, però stavano arrivando belli forti. Stamattina sul 10 pure c'era Portogallo, stava alle 10 normale. Chi si sta facendo a poco è Claudio Di Muros, ha fatto dei collegamenti a bocca aperta, sono rimasto, mai sentite in quelle posizioni. È arrivato Città del Vaticano, non so, ha fatto dei collegamenti, ma lui è appassionato di queste cose, almeno sì, se capita li faccio, ma se no non è che vado a cercare la verità. No, lui sta la notte sino alle 3 del mattino facendo collegamenti, ma a parte la Città del Vaticano la rarità, perché dove lo trovi tu un cibi che tra l'altro è un radioamatore, perché io ho provato a parlarci ma c'era tutto il mondo che chiamava e manda radioamatoriale, mi parlerò in 40 metri, insomma mi sono in 40 o in 20 metri, l'ascoltavo molto forte, ma lui addirittura trasmetteva con lo scritti su due frequenze, parlava con uno e ascoltava con l'altro, c'era tutto il mondo che chiamava, è molto ambita la Città del Vaticano, e lui è riuscito a farlo in 27, ancora a Beccio, e poi ha fatto la cosa più rara che è impossibile, che io non ne ho mai sentito, che tu colleghi la Namibia in 27, l'ha fatta lui, ha fatto la Namibia giù nel Sudafrica, più su del Sudafrica, in diretta l'ha fatta, ha fatto San Luri in diretta, ha fatto Olbia e Porto San Paolo in diretta, infatti riesco a capire come deve avere qualche varco lui. Lui anche in alto, non pensare che sia coperto, perché verso l'altra, verso Sassari magari sì, ma verso l'altra direzione lui è libero. Sì, ma fare San Luri, lui deve passare il canale di Monorva, il canale di Macomede, ma poi c'è la piana del Campidano, diciamo di Oritano, di lì è tutto il piano, deve trovare qualche varco, perché lì ci sono quelle montagne che ti coprono, ti chiudono completamente, le hai viste quelle prima di intorno a Bonnanaro, Semetere, ci sono quella montagna alta che sembra un vulcano spento, tagliata a metà la punta, quella lì, lui ci passa probabilmente le due lì. Però la cosa più particolare e più difficile è che lui ha fatto Porto San Paolo, c'è tutto il mare davanti di lì. Come ti ha fatto? Forse c'è qualche vallata, qualche canale, è impossibile. E con la propagazione è possibile tutto, Robert. Anche Claudio parlava con Oristano, eccetera, facilmente, quando era in alto parlava tranquillamente, capito? Sì, ma lo faceva in diretta, indipendentemente dalla propagazione, perché sono di quei vecchi, se tu c'hai il muro davanti, un muro di una montagna, no, non mettiamo la propagazione, ma a lunghe distanze, sì, ma quando sei così vicino, entro i 100-150 km, non è influente la propagazione. Magari in altre bande sì, ma in 27 è assolutamente inesistente, perché lì vai quasi in linea ottica. Però lui probabilmente c'ha qualche varco, qualche canale, fa l'Isola Rossa, mi ha detto, Trinità d'Agosto riesce a entrare, vabbè, probabilmente ci possiamo entrare anche noi, io non ho mai provato, dice c'è questo CB all'Isola Rossa, magari con qualche canale io forse riuscirei a entrare, però Olbia è assolutamente impossibile, c'è tutta la montagna di Usido. Allora io ho parlato con l'Isola Rossa, però con Gigi Vulcano che era in camion all'Isola Rossa, stava passando e mi sentiva, ci ho modulato. Poi con Olbia mi ha detto, come si chiama, camionista, adesso non mi viene, mi ha detto praticamente che mi ha sentito, mi sentiva solo a me, gli altri non li sentiva, da Olbia, dal porto di Olbia, Domenico Tarzaretto. Ma questo quando è successo? Quando è successo? Era 2 anni fa. Perché io quando Claudio andava a lavorare a Perfugas, io lo accompagnavo sino a Perfugas, lui mi diceva l'unico che riusciva a sentire, senza vabbè, Ozzeri, quelle cose lì naturalmente, ero io, lo arrivavo sino alla fine, io l'ascoltavo sino a Perfugas, però Olbia, io non lo so, a me non mi è mai capitato di sentire, è già difficile col ponte, perché col Monte Raso noi ci colleghiamo in VHF, però c'è un ponte ripetitore in diretta, non lo so chi ci sia, forse l'unico che potrebbe arrivare è Fabrizio, perché lui ha una bella antenna, ha una bella posizione, probabilmente l'unico che poteva arrivare è Fabrizio, neanche Walter credo riesca ad arrivare a Olbia, sarà un po' difficile anche per lui. E Walter arriva a tutte le parti, quando facevano le gare, tu non c'eri, ma io sì, facevano le gare, parlavano con Badesi, con Olbia, con tutti quanti, lui, Vittorio Giove, facevano le gare, addirittura una volta mi sa che Vittorio aveva buccato l'antenna dai quattro quattro di dava. Sì, però Walter naturalmente è ai massimi livelli, però in VHF Fabrizio gli ha dato mattana forte, perché c'ha una bella posizione, non so se sei andato, ma adesso purtroppo ha dovuto smantellare tutto, ha dovuto rompere il traliccio, una barca di soldi buttati, mi dispiace tantissimo, perché non smontava alla fine la tagliata moletta, 12 metri di traliccio, uno spreco enorme. Però in VHF, detto anche da Walter, Fabrizio c'ha una posizione più favorevole. Come mai l'ha buttato giù? Stanno facendo lavoro? Stanno facendo il piano casa, all'ultimo piano c'è il terrato e sta facendo un po' di 40 metri o 35 metri, diciamo un paio di stanze, e purtroppo ci sono stati dei problemi di progettazione e cadeva proprio il muro della casa sul traliccio anziché leggermente spostato, e ha dovuto buttarlo giù, lui convinto di smontarlo, invece non è andata a buon fine, ha dovuto tagliarne tutto un peccato, alla fine ha portato la Marcedo, ma guarda, la tagliasse nelle mani. Abbassa un pochettino Claudio, sei troppo vicino al microfono o ti allontani il microfono o abbassi il mic, sei molto forte. Prova a parlare. Sì, va bene, vai Gianni. Ciao che ho arrugginito, ben sentito, dai, ti stavano nominando poco fa, infatti non mi ha detto, mi sa che gli mando un messaggio, non so se te l'ha mandato, e niente, siamo qua sempre i soliti, avanti. No, complimenti, già ti sto seguendo, vedo ogni tanto, complimenti per i collegamenti, veramente eccellenti e difficilissimi soprattutto. No, non ho terminato, purtroppo non ho avuto tempo, mi sono fermato lì ieri dopo che ho concluso con te, poi ero un po' stanco, ieri stavo guardando la partita, poi durante la giornata non avevo un attimo libero, se ci riesco più tardi magari vediamo un pochettino. Ok, comunque ben risentito Claudio, no, un messaggio non ho mandato, l'ho detto a Gianni, dopo gli mando un messaggio perché ci fa piacere ascoltarti, dai. E comunque sei entrato tu direttamente, non ho problemi, vai di nuovo Gianni e poi farai rigirare a Claudio. Claudio, ma la state facendo a ponte? Va bene, dai, se ti diverte fare di ex, sai bene che li fai, ma li stai facendo con apparecchi della 27 o con apparecchi radioamatoriali? Io provo a cambiare specchio perché mi stanno spatterando e non riesco a capire niente. Riprendo io allora. Che conviene fare? Come ho fatto io? Ho fatto, io ho il buco sul computer digitale, eccetera. Come scrivo il nominativo mi appare la posizione. Io ho la cartina del mondo e mi ho preso di qui ferma, come si chiama, per le lavagne dove metti gli appunti, i post-it, quelle specie di spilli colorati, gialli, verdi, che li compri al cinese, te ne danno una bustina con meno di un euro, e mi ho segnato tutti i punti del mondo che ho collegato, cioè la cartina del mondo, e poi ci metto questi punti, questi spilli, chiamiamoli, colorati, più come ho comprato una rubrica, se ce l'avevo già, dove ci sono dei altri alfabeti, come metto scritta, la puoi vedere, Australia, Giappone, Francia, e mi ho fatto tutto l'appunto, in modo che so se quella stazione l'ho già collegata, non so neanche a perderci tempo, anche se devo dire che col book te lo indica direttamente, però è sempre meglio avere una cosa, e tu lo puoi fare benissimo, ti prendi una cartina del mondo che tanto non costa neanche molto, 15 euro la paghi, una abbastanza grande, ci sono anche le zone postali, noi siamo GN40 GR, però se a te non te ne frega niente, la fai una cartina semplice e ci metti come ho fatto io, ed è divertente, e ti riempi tutta l'Europa, io l'Europa l'ho fatta tutta, forse chi è che mi manca? Vabbè, il Vaticano mi manca, quella lì dell'Europa, però gli altri ce l'ho quasi tutta. E poi inizio a segnare, quello è divertente vedere tutti questi puntini collegati sopra la cartina. Ma mica lo devi fare adesso, tu ci scrivi il nome per dire Giappone, quando hai finito le conversazioni te le hanno su un pezzo di carta, la cartina ci metti dietro un pezzo di polistirolo, un foglio di polistirolo dietro, glielo puoi sparare con uno sparapunti in modo che ti rimanga bloccato, o li metti un pezzo in altro in modo che questi chiodini rimangano. Io me l'ho messa alle mie spalle, quando faccio un collegamento nuovo, anche se devo dire adesso non ne sto più facendo perché sto facendo i diplomi e mi sto buttando tutti i giorni con i diplomi, ma all'inizio ne stavo facendo tantissimi di cantri nuovi, adesso quando vado, prima me lo scrivo in questa rubrica dove c'è scritto per dire la località, il country, poi vado nella cartina e li metto il coso, il chiodino, ed è bella averla tutta piena di chiodini, vuol dire che stai lavorando bene. Guarda, me lo ricordo, aspetta, lo dico in diretta. Sì, io sono rientrato. No, la Canaria non l'ho fatta, l'ho sentita tante volte, mi è presente che la Canaria ci voleva l'altra antenna, stavo utilizzando la verticale all'inizio di pollo, l'ho montata lì domenica, ho finito di tirare su con l'antenna nuova, col web, con l'antenna che è proprio per sparare in quelle direzioni di lì, perché il Giappone l'ho fatto diverse volte, ho fatto l'India, ho fatto di quella zona lì l'Indonesia, però la Thailandia un paio di volte ho provato, non sono riuscito a entrare, vabbè, non mi sono appassionato troppo, nel senso non ho avuto troppa pazienza, perché lì devi aspettare il momento opportuno, a volte io sono di quelli che devi partire subito, non mi piace stare mezz'ora, aspettare, a fare e basta. Ok Gianni, è rientrato, facci sentire questa radio nuova, avanti. Sì, non è nuova, questo è il 2009, sto uscendo col 2009 perché con l'altro apparecchio, come modulava, chiudo ruggito, si portava avanti, si portava dietro lo splatter, capito? Tu no, invece lui sì. Quando ti arriva Claudio? A me? Certo. Non ho guardato, fallo parlare. Fai qua. Mi arriva Santiago 9, Claudio, a me. No, gli arriva bene, ha mirato tantissimo. Ti ricordi all'inizio, a parte quelli che eravamo vicini per Claudio, poi qualcuno aveva un po' di difficoltà, dice se ce ne sentiamo sul fondo. Adesso ha migliorato tantissimo, la radio conta tanto, oltre che l'antenna naturalmente, prima di tutti l'antenna. No, qua arriva quasi 9.20, con i picchi arriva 9.20, veramente un segnalone fortissimo. Cacciano bene, ma tu sei a due bassi da Edo, in linea d'aria è normale che ti arrivi così. Però siamo più vicini a te, però già, non pensare che io abbia una posizione aperta, io vado tutta la collina di coso, di scala di gioca che me lo chiude a me lui. No, ma deve essere c'è qualche varco che passi. Io quando ti arrivo Claudio a te. Sì, l'ho fatto diverso, ma no, quello diciamo, i paesi orientali, medio orientali, forse l'antenna mia è favorevole a quella zona, no, li faccio bene, io ho avuto difficoltà per i paesi africani, ne ho fatto ben pochi, vabbè, non è che mi sia messo più di tanto a fare chiamate, però sono un po' in difficoltà per i paesi africani, a parte quelli parte nord dell'Africa, però Sudafrica li sento, però ancora non sono riuscito a collegarli. Tu hai fatto la Namibia, quello è molto ambito come come difficoltà, l'ho sentita diverse volte però non sono riuscito mai a entrare. Poi quando ho più tempo, adesso tanto l'inverno è lungo, se Dio vuole mi butterò anche a fare i canti, perché adesso non sto facendo assolutamente niente, sono da almeno da maggio che non faccio collegamenti per fare canti nuovi, sto facendo soltanto diplomi e diplomi. Infatti mi sto divertendo, guardatevi le classifiche se avete tempo, non per falsa modestia, però sono sempre tra i primi, non meno di 20-25, in certi sono arrivato anche quinto, cioè quello importante sono 22esimo in uno che ci sono più di 3.000 partecipanti. Vabbè, sono soddisfazioni, là. Interessante sia soddisfatto tu, Robe, esattina tutti degli anni, se te lo guardano o no. Interessante che la soddisfazione sia tua. KK. Beh, vabbè, sono cose che magari se piacciono va bene, là. A me sì, il primo periodo ne facevo tanti collegamenti, ne ho fatto diversi, sono arrivato anche a Londra dalla macchina, se per questo dal quadrato. Sì, già lo so, però adesso è sempre più difficoltoso, anche se devo dire quest'anno per questioni di macchie solari, e temperature alte, eccetera, eccetera, c'è un sacco di frequenti e situazioni, diciamo, di stazioni che prima erano rarissime, perché con tutto l'inquinamento elettromagnetico che c'è, cellulari, broadcasting, eccetera, eccetera, impianti elettrici, elettrodotti, eccetera. Ok, signori, io vi devo lasciare, magari ci sentiamo dopo che mi hanno chiamato, dai. Interrompo, se ci siete ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao Claudio, ciao Gianni, anche eventuali ascoltori. Ciao, ciao, interrompo. Sì, dai, ciao Robè, buona carica quando la fai, dai. Fra poco devo mollare anche io o Claudio, perché anche io devo andare a preparare da mangiare al cane e poi dobbiamo mangiare anche noi, dai. Comunque posso stare ancora un po', dai, avanti là, perché ho abbassato. No, io ce l'ho originale, l'ho comprato nuovo e praticamente va benissimo il mio, e ho applicato un microfono amplificato che mi ha consigliato Marco Condor, l'ho comprato perché ho visto che a lui andava bene, ho questo microfono amplificato perché col suo mi dava la radio un po' nasina, mi faceva, invece con questo va bene. No, il mio è cromato e c'ha lo smitter bianco, poi c'è anche con lo smitter blu, che è un'altra serie che hanno fatto, capito? C'ha lo smitter blu, è uguale questo però allo smitter blu, il mio ce l'ha bianco, ma non me ne frega niente, sono fesserie quello, interessante che esca bene l'apparecchio. E ho notato anche che non prende splatter, è veramente un bel apparecchio, è vecchia generazione, non è col circuito PLL, capito? Non è con i microcircuiti che fanno adesso. A te hai detto che piace la static, io ce l'ho la static, l'ho messo sul Ruiz e esce veramente forte. Vabbè, me l'hanno regalato, era da cambiare il cavo perché aveva, a furia di stare fermo, il cavo c'era tutto quanto mangiucchiato, riusciva la pellicola così, seccata proprio. Ci ho cambiato il cavo, l'ho pulito, ho fatto, guarda, adesso è perfetto, va benissimo. Il mare grande, il mare grande, sopra le onde, non c'è nessuno, buonasera. Io c'ho quello che ha tre strumenti, per intenderci, l'orologio, tre strumenti, ha le bande laterali, è la stazione base quella che c'ho io. Buonasera. KK, la base, sì, quella che c'ha i lati in legno e la parte superiore tutta in lamiera. Servizio, vuoi lasciato col bianco, hai lasciato col bianco. Ah, io entro, Eugenio, buonasera. Mancuari, buonasera a tutti, buonasera. Quanto siete veloci a schiacciare. Eravamo soli per quello. Dai, entra, tranquillo, vai, vai che ce n'è. Guarda, buonasera a tutti. Chi è quello che siete per bottare? Chiodo arrugginito da Muros. Perché prima lo sentivo bene, adesso non lo sento più? Perché quando cambia apparecchio cambia anche lui. Ogni tanto cambia apparecchio, lui li fa girare, quindi magari con l'altro apparecchio. Io sono col 3009 oggi, come mi ascolti? Bello, bello il 3009, bellissimo, bello apparecchio. Sono ancora innamorato del 3009, un mio di gruppo. Io guarda, le ho messo un microfono amplificato che mi ha consigliato Marco Condor e va veramente bene. Sì, sì, bello, bello, io uscivo una canonata anche il 2009, c'era ancora il microfono amplificato che uscivo. con il 2009. Io già con questo 2009 ho già con il DM1000. Ah, ho capito. Ma sono apparati che escono bene anche col microfono originale, perché alcune persone anche con quello originale a me mi faceva la voce nasina, infatti me l'hanno detto e l'ho cambiata. E poi è troppo pesante, il microfono originale è pesante. Già vanno bene un apparato, vanno bene, ma gli hai aperto delle C? No, niente, questo è normale come l'ho comprato, questo l'ho comprato nuovo, perché quello che mi hai venduto tu, l'ho venduto all'altra persona, ho aggiunto 20 euro e me l'ho preso nuovo, capito? Nuovo di te. Ma tu sei TDN, sei? E dove esci da pizza e tutta la sera già vedi, tipo, sempre assente. Sì, assente perché sto tornando adesso da pescare. E cosa stavi pescando? Io erano con sacca, io mica l'ho comprato una seconda nuova, l'ho comprato un uovo nuovo. L'ho comprato un uovo nuovo, comunque inizia. Ciao, ciao Natale. Natale. Ui. E cosa hai pescato? Lunghi. Una vera lunga. Con Franco si è andato. Ehi. Che dove stiamo andando noi ci sono le orate a galla. Poi a due o tre stiamo prendendo, cioè io no, proprio con lui dici. Non mi ascolta Natalino. Natalino, ascolti Eugenio. Basso a basso lo sento. Sarà cambiata la stanzena, ma sarà cambiata la stanzena o sarà cambiata? Sì che sarà cambiata, ci ho messo quella come la tua. Che è, stavo da più giù là. Io l'ho sento bassissimo. E lui a me non mi ascolta, come mai? Ecco un apparecchio omologato Natalino. Avanti chiudo a Ruggerizzo per i saluti a Natalino. Ciao Claudio, ciao anche Eugenio, purtroppo vi sento bassi perché sono in una zona un po' così, capito? Mi dovete scusare, però la colpa è della zona. Ciao, ci sentiamo, chiedo a Ruggerizzo. Ok Claudio, buona carica quando la fai, grazie per il questione, avanti Eugenio. Yeah, ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Lui ti saluta, se non lo senti ti ha salutato. Avanti Natalino, c'è un po' di propagazione Eugenio. Già la sento, quella mi sale un po', la fermo tutta. Quant'è che ti arrivo lì a Porto Torres, oggi di segnale, di radio? Adesso hai aumentato, hai attaccato. Stacca normale. Guarda. Sì, a Santiago 7, modulati 8, sei salito a 9.10. Attaccato. Già va bene, là. Chiara la radio era? Sì, sì, alla grande. Cavagava. Vabbè, Natalino, e come mai sei andato a pescare? Non ti faceva male la gamba? Sì, infatti, mi fa sempre male. Io almeno ho passato una serata diversa dalle altre, che sono sempre in prigione. Ma in spiaggia siete andati? No, negativo, dalle luci. Per me sarebbe stato un martirio. Dille che stamattina presto ci sono le orate al posto, dove sono a galla. Sono orate mattonzi, che i miei colleghi stanno facendo col fucile. Infatti Rugonzo. Ne ho visto anche uno, però non prendeva le orate, prendeva il barracuda così, a pelo di banchina. Illuminava, quando c'era il barracuda, pure lo sparava. Non è che sto parlando della mattina presto. Mattina presto sono allucinanti. Salgono a mangiarci le cose che sono attaccate alla banchina. Lo so. Mica io ci andavo dalle 4 di mattina a 4 e mezza, ci andavo da presto io. Ne ho preso anche io. Una volta c'era uno con un secchio, guardate non c'era niente, ho detto buongiorno e non mi ha manco salutato. Vabbè mi sono messo a fianco, metto il cucchiaino come segnalino, cazzo appena lampato, sento brivri brivri. Lui si gira e guarda con la coda dell'occhio, grazie a Giubilea un'oratina sarà stata 600 grammi, è la prima, da voi cazzo se fosse tempo a pulire la gara e tira. Alla fine quello ha preso il sì, che tutto quanto e se ne è andato. Stavano a torre la portante. Cosa c'era portante? Stavano schiacciando la portante, quando stai parlando. E se mi sono preso la mia buccia da casa a parte, abbiamo fatto bene. Se la farina ti ascolta, però da le mie parti ti tappa. Guarda a vedere adesso se mi tappa, là. Vediamo un pochettino se mi tappa adesso. Cioè, però ha attaccato così, ti devi attrappare. compressa la modulazione. Sto che andava bene poco fa. Questo passaggio andava bene, staccati un po' dal microfono. Ero troppo attaccato forse. Guarda se passa adesso la portata. Ma adesso si a fondo scala. Va benissimo. Però ti ricordi quando attacchi mi staccavo un po' la bocca al microfono. Non so, fa quell'effetto, ma siccome prima c'avevo il normale qua, mi sono abituato con quello. Faccio perfetto, limpida, limpida. Ah boh, la carità, io tanto vi saluto, dai, che me ne sto andando oggi. Così si gioca con la macchinetta, la BP. Me ne sto andando che devo andare a fare la da mangiare al cane e poi devo mangiare anch'io, là. Ci sentiamo, buona serata a tutti, grazie per il QSO. Oggi mi dispiace, ma devo andare, dai. Ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao Gianni. Se Dio vuole. Ciao Luigi. Ci sentiamo alle prossime, anche a me. Perché dovete calare ora. Ciao a tutti. Ciao Natali, si sente un lugasino. Ho capito che sto salutando, dai, ci sentiamo Natali, ciao, buona carica quando la fai. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Hola, sezione 10, CQ canale 10. Ciao, avanti qua su 10. Hola, aperto 10. Ciao, avanti su 10. CQ 10, CQ 10, attenzione, c'è qualcuno. Hola. Avanti qua su 10. Eccomi. Chi sei? Eccomi. Allora. Hola. Ok, sto uscendo, buonasera. Sì, buonasera. Sì, 9:30 sta arrivando la radio, buona. Chi sei? Scappa, buonasera. Ben sentito, sono Daniele. Daniele da questa parte non ci siamo mai ascoltati, ho appena attaccato la stazione, stavo facendo delle verifiche sull'apparato che era un po' fermo e adesso vediamo un po' come si sente. Avanti per te. Sì, lo metto qua, non credo che l'avete mai sentito. Non è che entro spesso qua, diciamo tempo fa, sì, adesso lavoro su altre frequenze. Segnale ottimo nella modulazione, perfetta, impeccabile. E se mi dici da dove stai trasmettendo e che tipo di apparato? Scappa Roberto, ben sentito. Allora, sto trasmettendo da Sassari, sono in zona dei vigili del fuoco. Allora, l'apparato che ho messo su, che ho rimesso su, è un Yaesu FT756G con il catturatore automatico. Ora sto modulando con il microfono palmare con una termina di barra mobile qua fuori dalla finestra. Sembra che stia andando bene, dai. Allora, la modulazione è perfetta, ti devo dire, è perfetta, niente da eccepire. Il segnale, considerando che siamo vicini, anch'io sono abbastanza vicino al vigile del fuoco, nell'area siamo molto vicini, però stranamente stai arrivando solo 9:30. Io quanto ti arrivo, per curiosità? Scappa, sì, siamo un po' vicini, sono un po' ridotto di potenza, non so tanto di tutto quello che ho. Allora, tu mi arrivi 9:20 su questo sinter ad Ago, questo cassettone dello IAEU 757 che è un po' fischio, però arrivi con un buon segnale, una buona radio. Sì, no, 757 l'ho dato via da poco, il GX2 io avevo della IAE, su un discreto, diciamo, una radio paragonabile al vecchio 140 che avevo. Questo è un 440, un KMVD 440 con l'MC60. Capo, bella parata. Sì, un pochino, se così magari ti arrivo un pochino di gas. No, vabbè, diciamo, non è per aumentare tanto il segnale devi salire tantissimo in potenza. Quella radio dà sino a 100 watt, forse neanche lì dà, forse sono tanti ne dà in AM, perché è fatta per altri tipi di scopi, diciamo, per altri scopi, e in banda laterale magari ne tira fuori anche più di 100. Però in AM mi sembra tiri una cinquantina di watt quella radio. Esatto, confermo. Adesso quello uso sono perfetta, qui sto andando su con neanche 50 perché non sono al massimo, ripeto 35 watt in città, ma che basta la lampada. Il problema mio è che sono un po' negativo con l'antenna, troppo più basso, troppo piano, altri due piani sopra di me, la forma è fuori sul motore dello splitter, quindi anche questo è un po' un limite. Allora adesso ti consiglio di abbassare la potenza, che stai saturando e non vorrei che ci fosse qualche rientro di rosso, di stazionarie. Non so se c'è la possibilità di verificarlo con l'apparato o con uno strumento esterno. Verifica, perché la modulazione si è sporcata tantissimo, ritorna come di prima. Già, no, ho l'accordatore automatico in cascata, l'originale, sempre gli AES, l'F757A, no, stazionario non ne ho, però sì, sicuramente stavo andando troppo di potenza, non so, adesso non mi sento un po' meglio. Sì, sì, no, va bene, adesso è perfetto, poco fa, leggermente esatto, lo stavo strappando, la modulazione era un po' sporca, no, io sto utilizzando una Mantova 1, un'antenna 5 ottavi, sono più su di dove sei tu, dai, in linea d'aria, se mi hai fatto quel riferimento saremmo nell'arco dei 500 metri, chiaramente probabilmente con l'antenna non stai radiando come dovrebbe, perché siamo vicinissimi, dovresti arrivare a fondo scala, non dico a fondo scala, ma almeno un segnale 950, considerando che siamo così vicini. E hai modo di migliorarla col tempo questa situazione dall'antenna o sei sacrificato per altri motivi? Ma allora, diciamo che ci ho pensato, ora adesso appena fatto il tutto, quindi per farmi fare le valutazioni di installare qualcosa, ho la possibilità di installare il testo, perché è stato dopo condome, è la prima cosa che succede, no? Sono tutti i trattori per noi, per me con questa malattia, quindi sì, avrei la possibilità, ho anche degli antenne, una studio di un manco, la salvo, la curva, e quindi niente, devo solo capire, vedere un pochino organizzare, cioè salire tutto con tutto il di lavoro, capire, non è una possibilità positiva di mantenere una bella antenna, però vedrò arrangiarmi, insomma, così, devo capire un pochino come la situazione. Allora, per adesso sono in ascolto da qualche giorno, questo provato un attimino con questa antennina che sembra che stia andando bene, anche se lo so, sono molto limitato, sono oltre due scaffali, perché non riesco a andare, e poi alla fine la mia posizione è negativa. Ma c'è da dire, tu magari hai accordato l'antenna, ma il rendimento, hai accordato l'antenna, hai messo in risonanza e con l'impedenza dell'apparato, però non sei radiato, ti ripeto, dovresti sparare molto, ma molto più forte. Considerando che io ti sto ascoltando con l'antenna, una discreta antenna, non dico che sia eccellente, ma una discreta antenna, una 5 ottavi, un'antenna di 7 metri, per cui considerando le distanze dovresti arrivare fortissimo, ma probabilmente l'accordatore ti sta facendo in modo che c'è la stessa impedenza dell'antenna con l'apparato. E basta, perché non sta funzionando come dovrebbe il segnale, per cui ti consiglio immediatamente, se hai possibilità, metti un'antenna più performante, così ne dai delle belle di sussi alla gente, perché qua siamo abbastanza in alto e si riesce a coprire molto bene, oltre che la città, anche i paesi limitrofi, eccetera eccetera. E se c'è la Game Master, non è un'antenna impegnativa, ti occupa poco problematiche di cose di installazione, sicuramente la turbo ti fa 10-0, però anche con una semplice Game Master riesce a farti sentire alla grande. Ok, di nuovo a te, ricordami il nome, non me lo ricordo, Daniele, così. Kappa, confermo, Daniele. Sì, non sarebbe male, dai, anche io, insomma, spero di riuscirci. Adesso mi stai anche aiutando un pochino di più nella convinzione. Sì, non sarebbe male, davvero, perché sì, con tutto il rispetto, io non ci sento il mio, non ci vado d'accordo. Avevo il tetto pieno di antenne, giù. E quindi insomma, un pochino si sono limitati. Però tutto sommato, dai, se qui c'è la possibilità sul tetto di piazzare, sì, la Game Master è più comoda di tutte, anche se per sollevarla tanto, magari la mando a turbo un pochino più impegnativa, ha bisogno un po' più di volume, un po' più di stacco anche dal testo, quindi non lo so, devo valutare un pochino com'è la situazione su e poi farmi un'idea. La Mantova 1 è una bella antenna vecchietta, ma il suo lavoro lo fa discretamente sempre. Sì, no, c'è anche la Mantova Turbo, però ti dico, non ci sono differenze, la Turbo l'hanno fatta per questioni commerciali e basta, perché si facevano nei confronti Mantova Turbo e Mantova 1 e Mantova 5, ho avuto anche la 5, una a fianco all'altra, non ci sono differenze, assolutamente. C'è da dire, le vecchie Mantova sono molto meglio di quelle ultime che hanno fatto, perché l'alluminio era sicuramente di spessore e di qualità superiore, perché se ne sono spezzate più di una di quelle recenti. La Game Master c'ha il vantaggio che è un'antenna leggera, per cui puoi mettere un palo anche di antenna senza essere troppo robusto. Se monti sulla volta vorrei mettere un bel palo almeno 3 metri dal piano di terra, e dopodiché ci vogliono i tiranti. Oltre i 3 metri devi mettere su dei tiranti, perché qua quando ti vai in maestrale, vabbè, tu sei sedato nei Cagliari, voi avete lo scirocco lì invece, di vento predominante e pericoloso, qua quando gira il maestrale fa dei danni, era più di una persona ha spezzato le ali, come si dice. Ok, dimmi un po', sei trasferito da poco qua per questioni di lavoro o per questioni di altri motivi qua a Sassari? È in tappa con Tremma, sono antenne che prendono il vento e sono contentissimo così in questa zona, cioè tira più vento, ma tra le brutte e allora non si rischia. Quindi insomma, una volta mi sono spezzata la fila del master, perché era veramente un palazzo di 7 piani, dove tira da tutto, tira gli affitti, 4 metri e mezzo, e vivo tanto, tutto tanto che mi fa più, ho lavorato bene, ho lavorato tanto, però poi mi sono spezzato, mi sono detto che ho un momento, ho detto che ho un momento, probabilmente ci siamo sentiti su altre bande, non PMR, perché PMR magari non fosse in HF, VHF. Tu ma eri città di Cagliari o zone limitrofe? Zone limitrofe, a Semini, Villa Sor, ti dice qualcosa. Guarda, io da Semini c'ero 2 settimane fa da Corrado, non so se lo conosci, ho acquistato l'FT 3000 da lui. Corrado. No, non mi dice niente, c'è Paolo, da Semini, insomma quello con cui ho avuto scritto rapporto, io sono di Assemini originario, qualcun altro l'ho conosciuto, ma adesso non mi viene. Allora, il cognome adesso dovrei cercarlo, non me lo ricordo, c'era anche Paolo e c'è quel Sergio, di quelle tenere Sergio Lai, lo stesso radioamatore, così ci siamo sentiti, poi rivelsi in ascoltato della zona del Cagliaritano, diciamo stranamente riusciamo a farci sentire, non in VHF naturalmente, sulle bande HF è capitato più di una volta, e poi con i diplomi molte volte quando ci sono la Sardegna, infatti stai con le orecchie aperte, io faccio tanti diplomi e molte volte ci confrontiamo per dire chi fa più punti eccetera. Ok, i nominativi non li diciamo perché qua non si dicono, comunque sono contento che, e ce n'è più di uno di radioamatore qua, che è sulla, questo è il canale monitor di Sassari, il canale 10, c'è anche Claudio, poi entra, certe volte entra Marco, Fabrizio, chi c'è, Walter probabilmente l'avrei sentito almeno di nome, che c'è una stazione di quelle da paura, dai. Ok, ti rilancio di nuovo a te Daniele, avanti. Cappa, sì. Zona mia poi c'è Sergio, che è di 10° anno, Sergio, con lui ne abbiamo fatte quando ero giù a Cagliari, qualcosa insomma abbiamo fatto assieme. Sì, no, di qua ripeto, questa era da un po' che non entravo, quindi ho perso un po' il giro, la ruota, ma in generale, perché era da un po' che non era con la radio, sono sempre assente, quindi ho ripreso a sentire dopo anni. Non ricordo bene tutti i nomi degli altri, però avevo degli appunti che mi ero scritto quando ero in contatto, che avevo contato sulla fila del master, ero in una zona di via Rosello, lì avevo montato sulla fila del master e la cartuccia, e avevo contato la linea, quindi ho detto che da un po' che non è impossibile, non ricordo neanche i nomi, Alberto lo ricordavo, mi sono sentito stranamente. Sì, probabilmente, insomma, nominativo non lo diciamo, insomma se è capitale. Siamo abbastanza vicini, mi hai detto la zona tu, in linea vera, ti ripeto, siamo intorno ai 500 metri. Ok, poi la 10, canale 10, anche se adesso devo dire un poco meno frequentato rispetto a qualche periodo fa, però c'è sempre qualcuno, anche poco fa, io prima di andare a cena c'erano qualche amico che stava parlando, diciamo i soliti sono sempre una decina di persone più o meno, ci sono, qualche volta si alternano.